versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, questo è lunedì 12 di gennaio, 16:33 primi, siamo in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Vi ricordo l'indirizzo a cui mandare opinioni, critiche, proposte anche di temi da trattare in trasmissione, la versione di Oscar @radio24.it, e invece per intervenire in diretta 800 24 0024 il numero di telefono, per gli sms 349 238 6666. Oggi, dopo diverse puntate obbligatorie la settimana scorsa e anche sabato per chi mi ha seguito nei conti della Belva, dedicata al tema che si era imposto nelle cronache con la vicenda tragica parigina, torniamo a parlare di economia, ma non senza una premessa, perché io vi dirò che ieri, pur come tutti, essendo rimasto positivissimamente colpito dai milioni di persone che a Parigi hanno partecipato alla Marche Républicaine del no al terrorismo, io sono rimasto un pochino a grattarmi la testa, anche per l'ipocrisia, posso dirvi, di molti dei capi di Stato e di Governo presenti ieri nelle prime file della manifestazione parigina, perché giustissimo, la solidarietà non si nega a nessuno, però c'erano troppi paesi, a mio giudizio, che a casa loro non consentono ma proprio il minimo sindacale di libertà di espressione, di stampa, e figuriamoci di satira e di vignette, perché insomma dal Qatar alla Turchia, ed erano veramente tanti, era quasi praticamente la metà dei paesi esteri rappresentati era in queste condizioni. Allora va bene tutto, però io continuo a dirvi che la libertà di satira, che ripeto è diversa dai pezzi che i giornalisti scrivono, da quello che dicono in radio e in televisione, che vanno sempre corredati di numeri, atti, documenti di quello che si sostiene, e per questo se ne risponde come è giusto secondo la legge in tribunale. La libertà di satira e di vignetta, secondo me, appartiene a un altro regime, e la libertà nella nostra civiltà, di cui bisogna essere fieri, di europei, di figli dell'illuminismo e così via, quella è una libertà da considerare il più possibile assoluta. Ecco, lì c'era proprio la negazione di questa cosa alla testa del corteo di ieri. Naturalmente il mondo è complicato, bisogna essere realisti, ma lasciatemi esprimere questa opinione. Però oggi torniamo a parlare di economia, perché ho scelto un ospite che ha tre caratteristiche ai miei occhi, parlo da lettore qui, non solo da giornalista, molto positive. Oggi ha scritto due articoli su due temi che mi piacciono molto. Uno è dedicato alle contraddizioni di un paese che dice di voler attirare investimenti dall'estero, poi fa cose che vanno in direzione completamente opposte. Il secondo articolo invece rivela, è uno scoop giornalistico, rivela che in attesa, come siamo tutti, di capire entro pochi giorni che cosa la Banca Centrale Europea e Mario Draghi davvero faranno per il cosiddetto QE, il quantitative easing, cioè gli interventi ulteriori non ortodossi di acquisti sui mercati per tentare di riportare l'inflazione verso il 2%, che è il tetto, per così dire, programmatico della BCE, mentre siamo in deflazione. E con l'attesa di questo c'è una rivelazione sul fatto che l'Italia starebbe riflettendo sul fatto, oltre agli acquisti di titoli di debito pubblico, e qui bisognerà capire in che quantitativi fatti e secondo quali criteri, ma anche di vedere di inserirvi la possibilità di acquisto di crediti deteriorati delle banche italiane. Questo è un enorme problema, perché è una delle spiegazioni più strutturali della restrizione di credito nel nostro paese, cioè del fatto, se volete telefonare per darci una vostra opinione, fatelo pure, appunto, che famiglie e imprese italiane continuano ad avere mese dopo mese ulteriore restrizione di credito. E questo non si spiega solo perché la domanda di prestiti bancari è scesa, come è scesa, ma anche e soprattutto per il fatto che le banche devono immobilizzare moltissimo del loro capitale a fronte del fatto che la montagna di crediti in sofferenza è arrivata a 180 miliardi di euro. Allora, questo è un tema che per me è fondamentale, perché io da tre anni sostengo che invece di utilizzare i soldi della CDP per fare un IRI-BIS e ricomprare aziende, bisognava utilizzare non i liquidi ma gli attivi di CDP a garanzia di un intervento sistemico proprio per fronteggiare almeno la metà di questi 180 miliardi, cioè per consentire che cosa in termini non troppo tecnici? Alle banche di avere, italiane, di avere più capitale disponibile per fare più impieghi alle famiglie e alle imprese, cosa che secondo me non era troppo difficile prevedere in questo paese iperbancocentrico, altrimenti di fronte al monte delle sofferenze non sarebbe avvenuto, ed è esattamente quello che è capitato. Mi capitò di insieme ad altre di sostenere questa proposta, per esempio con il presidente del Consiglio Monti. Monti ci rispose dicendo che non era sua intenzione chiedere una cosa di questo tipo, che andava contrattata con l'Europa, perché sarebbe sembrato un aiuto alle banche italiane di Stato, perché è ovvio che mobilitare la garanzia pubblica di CDP questo implicava, ma era diverso dai soldi direttamente chiesti, come ha fatto invece il sistema bancario spagnolo ai fondi europei, e quindi ci disse di no. Resta il fatto che il no dei governi Monti, Letta, a un intervento sistemico di questo tipo ha portato il problema ad aggravarsi sempre più. Quindi questa seconda proposta che viene lanciata dal nostro ospite di oggi, viene spiegata, non lanciata, spiega i particolari di come potrebbe funzionare, di chi ci sta pensando, è un ulteriore motivo per invitarlo. Poi ce n'è un terzo, perché ha scritto un libro che a me è piaciuto molto e che mi permetto di consigliare a voi tutti per la lettura. È un libro che si intitola La via di fuga. È un libro che unisce la storia della famiglia dell'autore sullo sfondo dell'Italia degli anni 20, del fascismo, di gravi errori di politica economica, non solo mondiale, la crisi degli anni 20, ma anche di errori gravissimi del cambio italiano fatto dal regime fascista con quota 90, con la sterlina. Unisce la storia personale di un prozio dell'autore, un economista di vaglia, allievo di Einaudi, che però, come tutti i membri della sua famiglia, era ebreo e quindi era sottoposto a un regime di vita che poi con le leggi fasciste razziali diventa sempre più problematico, ed è la storia di questo prozio, è uno spunto attraverso il quale parlare di economia, parlare del nostro paese, perché c'è una parte del libro dedicata alla Calabria, c'è una parte del libro dedicata a quello che è successo nella Grecia piegata dalla crisi con l'Alba Dorata e il neofascismo che prende sempre più voti, e per condurre un ragionamento sul fatto di cosa bisogna fare quando un paese entra in declino. Cosa bisogna fare? Bisogna riconoscersi in questo paese anche nei suoi errori? Bisogna andarsene? Bisogna non fare né la prima né la seconda cosa, ma invece lottare con argomenti per cambiarlo? Oppure, quarta ipotesi, quella di far finta di niente e non vedere la realtà. Allora, voi gli chiederete, vabbè, hai parlato troppo, infatti è vero, ed ecco l'ospite, è con noi Federico Fubini, che oggi scrive per Repubblica dopo aver scritto per anni sul Corriere della Sera. Grazie di essere con noi, a Fubini. Buongiorno, ciao Oscar, grazie di avermi invitato e delle tue parole. No, le mie parole sono davvero, il libro mi è piaciuto tantissimo perché ero molto incuriosito. Terrei il libro per ultimo, però. Partiamo dal primo pezzo, quello dell'Italia che dice investitori esteri venite, e poi tu metti in fila una serie di argomenti, quello che è accaduto all'Ilva, quello che succede a Telecom, quello che succede a MPS, si potrebbe dire anche a Carige, cioè si dice venite, poi però le scelte concrete vanno in una direzione, non voglio dire opposta, ma quantomeno non proprio nella direzione di far venire la voglia a chi muove capitale internazionale di venire nel nostro paese. È una contraddizione della politica italiana di sempre, è più viva in questo governo che diceva di volere la svolta? Come la pensi? Io sì, ho cercato di mostrare tre grandi dossier industriali di questo paese, che sono l'Ilva, Telecom, il tema della banda ultralarga nel nostro paese, che sappiamo non esserci gli investimenti che ci sono da fare, e ovviamente soprattutto MPS, che è la terza banca italiana con un attivo molto grande, poco sotto i 200 miliardi di euro. Perché secondo me questi tre grandi dossier, che sono molto diversi, hanno un punto in comune, che sono enormi, decisivi per l'occupazione e la competitività del paese, e non si vede molto bene qual è la strategia del governo per cercare di risolvere questi tre grandi problemi che abbiamo. Si vede la tattica, sicuramente nel caso dell'Ilva c'è stata una pezza che è stata messa con i provvedimenti presenti a Natale, il decreto Ilva, la nazionalizzazione, ma è una forzatura. Non si vede però qual è il disegno complessivo per risolvere questo, il problema dell'Ilva. Faccio un esempio. sicuramente è una forzatura giustificata dalla situazione in parte, ma è una forzatura aver non solo nazionalizzato un'azienda che ha degli azionisti privati, alcuni dei quali, come gli Amendoni, che hanno o avevano il 10%, non sono colpevoli di niente se non di essere azionisti dell'Ilva. Dunque è un esproprio che è stato fatto nei loro confronti ed è stato fatto anche nei confronti della famiglia Riva. La famiglia Riva, che è accusata di reati molto gravi, ambientali, fiscali, valutari, che sicuramente non ha tenuto comportamenti degni di un azionista di questa dimensione, ma che prima ancora di un rinvio a giudizio è stata le è stata sottratta l'azienda, e la magistratura sta cercando di prendere il denaro, i soldi della famiglia Riva per metterli dentro l'azienda. Ora, questo prima ancora, sottolineo, di un rinvio a giudizio. Diciamo che si può dire, no, che una cosa di questo genere non ha equivalenti o analogie con nessun paese avanzato dell'Occidente, cioè non capita in nessun ordinamento. Questa roba qua sembra di voler difendere Riva, che no. Sono indifendibili, certo, per quanto mi riguarda. Certo. Dunque non si tratta di quello, però si tratta di certezza del diritto di fronte alla legge, si tratta di governi che cambiano leggi all'ultimo momento per nazionalizzare imprese di dimensioni molto importanti, per difendere l'occupazione nel breve periodo. Però qui viene la seconda domanda. Una volta che è stata messa una pezza, qual è il piano per l'Ilva? Esatto. I soldi non è chiaro da dove vengano, il percorso non è chiaro quale possa essere, perché ricordiamo che questa è un'azienda sotto sequestro che avrà bisogno nel giro di 2-3 mesi di investimenti di centinaia di milioni di euro, e non è neanche chiaro quale sia l'acquirente privato alla fine di questo percorso. Dunque l'ho trovata una vicenda emblematica, sicuramente è una brutta mano di carte che può essere data a qualunque governo, no, per carità. Un'emergenza ambientale, eccetera. Dunque, quello che è successo all'Ilva in precedenza, sia nella mala gestio, sia nel mancato risanamento ambientale, sia nelle decisioni dei governi precedenti, certo, non è imputabile al governo Renzi. Detto, esatto, questo, poi il problema è che come si fa? Sanitaria nella città. Il problema è che lo trovo emblematico di un approccio di questo governo che definirei ambivalente. Io non sono convinto dagli argomenti di quelli che dicono che questo governo non fa niente, certo, e che è tutto fumo, ma non sono neanche conquistato dagli argomenti di quelli che dicono che questo è un governo del cambiamento. È un governo profondamente ambivalente, trovo, che fa alcune cose interessanti, per esempio il Jobs Act sul mercato del lavoro, ma che ha una grossa difficoltà a focalizzarsi sulle strategie, e questo quando viene declinato nei grandi dossier industriali, che siano Ilva, che siano come dotarsi in questo paese di un internet veloce, di una banda ultra larga, che è un potente attrattore di investimenti, o anche come stabilizzare il sistema finanziario, perché noi abbiamo rifiutato di avere negato, come tu dicevi a proposito della via di fuga, abbiamo rifiutato di vedere la realtà, cioè che la quantità di sofferenze bancarie e di crediti, esatto, deteriorati nel sistema finanziario è eccessiva per avere un funzionamento normale dell'economia. Questo è un problema che è stato rimosso dalla discussione pubblica, dai vari governi e dalla stessa associazione bancaria italiana in parte. Non se ne è parlato, ma è evidente che se un domani, o si spera presto, ma non ne sono convinto, dovesse arrivare una ripresa, il sistema finanziario potrebbe non essere in grado di assecondarla. Esattamente, è ovvio, perché poi il capitale mica si libera perché c'è la ripresa, il capitale rimarrà impegnato di fronte a quella montagna di sofferenze. Io devo dire che è un mix, nella mia personalissima esperienza, di aver tentato di capire perché i politici su questo giravano la faccia, c'era da una parte il mantra che era condiviso con i vertici bancari di avere il sistema bancario più solido del mondo, più bello del mondo, noi non abbiamo mobilitato se non 3 miliardi o poco più per MPS, gli altri invece il disastro e così via, quando un problema è questo e altri, sulla cattiva gestione per esempio di parti del sistema bancario, dalle popolari ad alcune banche vicine alla politica ancora più delle altre, a quelle gestite dalle fondazioni, però questi temi erano rimossi. Dall'altra c'era la paura di dire diamo gli aiuti anche noi. L'effetto però è pagato dall'economia italiana, è pagato dalle imprese e dalle famiglie. Allora, adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale e dopo torniamo con Federico Fubini per farci spiegare come se questa ipotesi di sommare al QI della BCE un intervento sistemico sulle sofferenze delle banche sia possibile, e chi la immagina e perché, però anche, ripeto, qualche riflessione sul suo libro. Leggetelo davvero, si chiama La via di fuga, Mondadori, e l'autore è appunto Federico Fubini, perché è un pezzo di storia italiana mischiata con la grave crisi europea che tra qualche settimana, attenti al voto greco il 25 gennaio, potrebbe tornare a ruggire molto più pericolosamente di quanto molti non dicano, almeno questa è la mia opinione. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta alle 16.49 primi con Federico Fubini. Abbiamo parlato di uno dei suoi due articoli di oggi, quello sulle scelte industriali che mancano al paese. Abbiamo introdotto il secondo argomento, quello delle sofferenze bancarie. Rispondo a un ascoltatore che mi ha mandato un sms e dice: ma è possibile che critichi, su cosa c'entra il governo su questo? No, ma sono stato chiaro. Infatti il governo Renzi si trova ad ereditare anche la situazione di queste sofferenze a 180 miliardi delle banche. Io ho parlato del tentativo, che non fu ascoltato, mio, ma non solo mio, di persone più autorevoli di me, io insieme a loro, che tentammo di sollecitare Monti su questo tema, e lo stesso, a dire la verità, facemmo anche con Enrico Letta, ma la risposta fu no. E io credo che sia un grave errore, per così dire. Allora, una telefonata prima di far spiegare a Federico Fubini in cosa potrebbe consistere questa proposta. C'è Marco che ci chiama da Piacenza. Prego, Marco. Buonasera Giannino. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Al di là della simpatia che ho nei confronti di Draghi, soprattutto del suo inglese, come dice Barisoni, io non sono assolutamente d'accordo sul fatto di foraggiare di nuovo le banche, perché le banche sono già state foraggiate ampiamente, hanno i soldi, li hanno avuti per niente con quel grandioso prestito della BCE che è stato fatto qualche anno fa, e non hanno erogato niente, continuano a mantenere la gente con la bocca qua appena sopra il fango. Allora, il discorso è, il fatto di fare un quantitative easing per far salire l'inflazione mi sembra un ennesimo modo per drogare il mercato. Quindi cosa facciamo? Facciamo sì salire l'inflazione, ma lasciamo comunque sempre la gente con meno soldi in tasca, che dovrà pagare tutti i costi di un aumento dell'inflazione. Chiarissimo, Marco. No, ma la tua obiezione è chiara. Allora, ti dico prima brevissimamente il mio punto di vista. Gli LTRO, diversi da questi TLTRO che ci sono adesso, che sono finalizzati proprio a tentare di correggere l'errore che hai detto, cioè che il quarto abbondante del trilione di euro dati di linee di liquidità a bassa qualità del collaterale dalla Banca Centrale Europea, innanzitutto ebbe un grande effetto, perché Draghi si ha fatto più passi verso le politiche non ortodosse, e a questo dobbiamo se poi l'eurocrisi non è esplosa. Ma detto questo, avevano il limite che dicevi tu. Seconda cosa, il problema è che quel trasferimento è imprese e famiglie non è arrivato, appunto perché, tra le altre ragioni, ma una ragione di fondo è esattamente quello che le banche intanto devono bloccare quote crescenti di capitale proprio per far fronte alle sofferenze. Poi, sui particolari di come verrà fatto il quantitative easing, secondo me la correttezza ci impone di dire che potremo giudicarli solo quando la decisione sarà presa e capiremo quali sono i criteri, ci sono diverse ipotesi che girano, eccetera, eccetera. Io continuo ad apprezzare che Draghi in realtà faccia fare dei passi avanti alla BCE, che servono a comprare tempo, poi spetta alla politica a fare le riforme giuste, perché la politica monetaria da sola i miracoli non li fa. Federico Fubini, allora, la proposta che spieghi oggi da questo punto di vista, come potrebbe funzionare per chi non ha letto? L'idea nasce da un paper, da un documento che hanno fatto persone, va detto, esterne ma vicine al governo, Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti, con alcuni dei principali economisti della CDP, Rainer Maser, ex ministro del bilancio, banchiere, Zadra, ex direttore generale dell'ABI e altri, e anche qualcuno della Consob, Minnella. Minnella, mi scuso, la proposta è sostanzialmente di impacchettare in titoli cartolarizzati, ABS, quelli che un tempo si chiamavano, prima che la parola diventasse tabù, appunto titoli securitizzati, nel caso che siano di bassa qualità anche subprime, comunque impacchettare questi titoli, venderli a un prezzo profondamente scontato. Teniamo presente che le banche li hanno già spesso svalutati, soprattutto a causa della revisione della qualità degli asset delle banche stesse da parte della BCE, venduti a un prezzo molto scontato alla BCE, con una garanzia pubblica. La garanzia serve a far sì che la BCE sia indennizzata nel caso in cui questi titoli già svalutati registrino delle perdite ulteriori. Questo sarebbe il meccanismo. L'idea è di sfruttare la parte del quantitative easing della BCE che non riguarda i titoli di Stato, ma l'altra parte, quella che Draghi ha avviato a settembre scorso, che è entrata già nelle sue prime fasi operative, cioè quella di acquisto dei cosiddetti ABS, i titoli di pacchetti di prestiti privati. Questo aiuterebbe, grazie alla garanzia pubblica, aiuterebbe le banche a liberarsi di questa è un po' la domanda che faceva l'ascoltatore. Lui diceva: ma le banche hanno avuto tutta questa liquidità dalla BCE perché e non ha funzionato. Un conto però è la liquidità che viene data come finanziamento in prestito, un conto è il capitale delle banche. Esatto. E poiché questi attivi sono deteriorati, le regole, diciamo, bancarie internazionali richiedono che ci sia del capitale immobilizzato dentro la banca a compensare il rischio posto da queste perdite di questi attivi, questi prestiti che stanno andando in insolvenza o sono andati in insolvenza. Dunque, se la BCE a prezzi scontati con la garanzia pubblica italiana comprasse questa carta, questo aiuterebbe almeno in parte le banche stesse a liberare, a migliorare la qualità del loro bilancio, a liberare capitale eventualmente per nuovi prestiti. Allora, naturalmente ci sono dei problemi. Esatto, infatti quello ti avrei chiesto immediatamente, quindi vai. Ma il problema, Oscar, tu dicevi, Monti non ha voluto farlo, Letta non ha voluto farlo, non è un caso. Lo stesso Renzi ha esitato, non c'è bisogno del... Ricordiamo in questo che invece il governatore della Banca d'Italia, al suo merito, Ignazio Visco, insomma, da un anno e mezzo, quasi due anni, in molte occasioni pubbliche ha insistito sulla necessità di un intervento strutturale sul Monte Sofferenza. Prego. Assolutamente, la Banca d'Italia peraltro ha già nel cassetto dal tempo che tu dici un piano simile, quello di creare un veicolo con una garanzia pubblica. Questo veicolo si finanzia sul mercato emettendo dei titoli, con i proventi di questo finanziamento compra sempre a prezzi scontati le sofferenze delle banche, i titoli deteriorati sempre a grande sconto. Se li compra a prezzi abbastanza bassi può alla fine farci un profitto, se registra un'ulteriore perdita allora c'è la garanzia pubblica. Questo è il meccanismo, esatto, della Banca d'Italia. Lo avevano proposto a Monti, lo avevano proposto a Letta, lo avevano proposto a Renzi. Nessuno ha mai voluto farlo. Perché non hanno mai voluto farlo? In parte della risposta l'abbiamo avuta nell'intervento dell'ascoltatore, perché l'idea di utilizzare denaro pubblico per aiutare le banche è profondamente impopolare. Comprensibilmente impopolare non solo in Italia, lo è stata negli Stati Uniti, lo è stata ovunque questo, certo, sia successo. No, ma questo è giustissimo, però resta il fatto che non farlo per avere poi degli effetti di medio, lungo, immediato periodo ancora più gravi è un errore. Cioè, la politica dovrebbe essere capace di fare queste scelte. E dunque naturalmente il dibattito è quali sono le contropartite che la politica può chiedere alle banche in cambio di questo aiuto pubblico, perché i soldi della garanzia andrebbero alla BCE, però in realtà andrebbero alle banche indirettamente, perché intanto le banche hanno preso i soldi della BCE. Non c'è dubbio. Dunque il tema è che è molto possibile che a fronte di questo la politica, cioè il governo, possa dire: va bene, le banche che subiscono, che hanno questo trattamento con soldi pubblici, devono cambiare il management. Devono cambiare il management. Licenziare i manager. Più facile a dirsi che a farsi, perché di fronte alla prospettiva un manager, un amministratore delegato di una banca, di fronte alla prospettiva di perdere il suo posto di lavoro, spesso molto remunerativo, preferisce tenersi le sofferenze e non fare credito. Non c'è dubbio, io poi su questo, perché il nostro tempo si sta esaurendo, devo dire che ho un'opinione un po' radicata sul meccanismo collusivo che politica e sistema bancario italiano hanno. Questa è una mia opinione, quindi non parlo a nome di Federico Fubini. Leggete il libro di Federico Fubini, La via di fuga, si parla dell'Italia non solo degli anni 20 e 30 del fascismo, ma dell'Italia di oggi, della Grecia di oggi, della Calabria di oggi. E la scelta di Federico Fubini è quella di dire: non dobbiamo nasconderci, chiudere gli occhi di fronte alla realtà, ma dobbiamo cambiare le cose, anche se però è molto complicato. Grazie a Federico Fubini, continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.